Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. C'erano là anche molte donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Signore, da morto sei stato consegnato alla tua madre. Lei ha dato tutto per farti vivere, ma coloro per i quali sei stato mandato ti hanno ucciso. Un giorno, Signore, hai chiesto: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Gesù, converti i nostri cuori affinché possiamo ritornare tra le braccia della Madre. Grazie, Signore, perché tutto quello che avevi lo hai dato a noi. Ci hai donato te stesso. Tu vuoi che continuiamo a fare ciò che hai fatto tu durante la tua vita terrena. Oggi vogliamo rispondere con gioia e responsabilità. Gesù, eccoti le mie mani, perché tu possa avere ancora mani per benedire. Ecco il mio cuore, perché tu possa continuare ad amare attraverso il mio cuore. Gesù, eccoti i miei passi. Cammina ancora sulle strade di questo mondo per fare del bene, per ritrovare quelli che si sono allontanati e si sono smarriti. Fa che la tua parola, la tua grazia, la tua pace possano arrivare fino ai confini del mondo. Eccoti, Gesù, i miei occhi, perché tu possa vedere quelli che sono caduti e si sono fermati, e dona loro la forza per proseguire il cammino. Con i miei occhi guarda i campi maturi e chiamaci per il grande raccolto. Signore, prendi tutto il mio essere e benedici, ama, annuncia, guarisci, salva. Gesù, eccomi. Prendimi e rinnovami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Del figliuolo tuo trafitto, per scontare ogni delitto, condivido nel dolore.